Il vecchio generale sedeva presso la finestra. Il sole gli batteva sul petto e gli faceva luccicare le decorazioni. Ah, sei tornato, disse a Daiwan, con lo stesso tono con cui gli avrebbe parlato se Aiwan fosse partito ieri. Sì, nonno, rispose sorridendo Aiwan. Il vecchio ora era scosso da un leggero tremito e le medaglie gli tintinnavano a tratti sul petto, ma non aveva affatto perduto la sua aria maestosa. Sedete, ordinò. Aiwan e suo padre obbedirono. Il vecchio prese dalla tavola un rotolo di carta, lo aprì e pontificò. Non appena Canton presenterò i miei piani personalmente a Pai, l'idea del suo contenuto essenziale è questa: lasciate che i giapponesi abbiano via libera. Mi si dice che a Shanghai abbiano ucciso 10.000 persone, ma noi siamo milioni, abbiamo dunque moltissime riserve. Che i giapponesi si sfianchino e quando saranno sfiancati li inviteremo a tornarsene al loro paese. Non tutti in una volta, ma un certo numero all'anno. E per far sì che si non perdano la faccia, bisogna pure usare certi riguardi al nemico, inviteremo la gente di altre nazionalità ad andarsene del pari. A questo punto, non avendo noi perduto le nostre forze nella lotta, potremo, con tutte le nostre risorse intatte, se l'uso della forza diverrà necessario, adoperarle in tutta la sua estensione. Il vecchio li guardò entrambi orgogliosamente. Aiwan guardò suo padre, il quale a sua volta guardava il vecchio con occhi tolleranti e benigni. Che cosa ne pensi del mio piano, Aiwan? Domandò lo stratega. Forse non sarà molto ben accetto alla gente che stanno ammazzando, disse con cautela Aiwan. Ah, assurdo, disse con forza il nonno. In primo luogo è gente assuefatta alla carestia, e sebbene in minor misura alle guerre. In secondo luogo, persino nel caso in cui tutti i giapponesi si trasferissero nel nostro paese, ci accorgeremmo di loro come e tutt'al più di poche mosche in soprannumero. Il nostro paese è troppo vasto per essere conquistato da un altro così piccolo, senza contare che la nostra gente si abitua a tutto. Scandiva le frasi con tono categorico, come se non aspettasse risposta alcuna, perciò Aiwan non gli disse nulla. Improvvisamente il vecchio pensò ad altro. Ho perso una delle mie medaglie, disse a suo figlio con una voce improvvisamente diversa, una voce come di ragazzo che si lagna. Quale medaglia? Gli domandò il signor Wu. Si avvicinò allo scrigno foderato di velluto nel quale il vecchio generale teneva le sue medaglie appese ad altrettanti gancetti e l'aprì. Era una medaglia che mi ero fatto fare in metallo dorato, rispose il vecchio, sul tipo di quella che portava l'ambasciatore italiano, non ti ricordi? Diamine, l'avevo fatta fare meno di 10 anni fa. Era una delle mie più recenti. Un servo l'ha rubata. Bisogna trovarlo e licenziarlo. Il signor Wu non rispose. Cacciò le dita dietro il velluto e disse: Eccola, è qui, la sento, ma non posso tirarla fuori. E lasciate fare a me, intervenne Aiwan. S'alzò, cacciò anche lui le dita dietro il velluto e poiché erano più lunghe riuscì ad afferrare il nastro della medaglia e a tirarla fuori. Eccola, eccola! Gracchiò il vecchio. Dammela, dammela! La metterò qui al suo posto, vicino a quella con l'aquila. Avevo pensato di mostrarla a Pai quando andrò nel meridione e sarebbe bene che la copiasse per i suoi ufficiali. Lo lasciarono che rideva. Fuori, nell'atrio, una porta si aprì ed ecco la madre di Aiwan. Quando lo vide, esclamò: Aiwan, eccoti di ritorno. Sì, mamma. La vide molto cambiata, era diventata molto grassa. I piccoli, graziosi lineamenti erano quasi completamente cancellati nel resto del viso, ma ella gli afferrò le mani e gliele annusò come soleva fare quando era bambino. In quel gesto egli la rivide come gli era apparsa al tempo della sua infanzia, bella, saggia e molto più forte di lui. In quel tempo gli piaceva correrle incontro e nasconderle il viso nel petto. Ora ella era persino ripugnante. Egli era cresciuto del tutto fuori dalla sua cerchia e dalla terribile lontananza della sua maturità. Vedeva bene ora che in sua madre per lui non c'era più né saggezza né rifugio. Tristezza di quel pensiero. Suo figlio Giro forse avrebbe guardato un giorno lui con quei medesimi sentimenti. Solo la voce di sua madre non era mutata, era sempre la stessa dolce, fluida voce. Senti, Aiwan, gli diceva, non disfare i tuoi bagagli, verrai con noi stasera. Partiamo tutti per Canton. Qui la vita è paurosa, bombe di giorno e di notte. Tuo padre non vuole venire, ho tanto pianto, ma quando mai mi ha ascoltata? Perciò devi venire e stare con me. Aiko, oh, Aiko, l'ho perduto. Ah, quella donna. Ma io devo avere qualcuno, non posso mica badare da sola ai due vecchi. Porti con te tutta la servitù, meno due domestici, ricordò suo marito. Ma la servitù va anch'essa sorvegliata, esclamò Madame Wu. Non posso venire, disse Yuan con franchezza. Molto meglio parlare franco e subito. Sono tornato in Cina per combattere io, mamma. Il suo piccolo labbro inferiore, ancora rosso come quello di una fanciulla, tremò. Sei proprio come tuo padre, protestò, ostinato come lui. Ella stava per piangere, ma in quel momento comparve una domestica con una bracciata di pellicce. Portiamo queste robe, signora, o le lasciamo qui? No, saremo certo di ritorno per l'inverno, disse la signora Wu. Lasciale. No, prendile, corresse il signor Wu. Non ho bauli abbastanza, gemette la signora. Compera quanto ti occorre. Ma che fastidio, si lagnò afflitta madama. Dimentica di tutto il resto, si voltò e rientrò in camera sua. Aiwan si volse a suo padre. Se permette, vado in camera mia a rinfrescarmi. Un improvviso bisogno di essere solo lo prese. Suo padre assentì col capo. E Aiwan andò alla propria porta, alla porta che s'apriva sulla sua vecchia stanza. Gli parve a tutta prima che Peonia dovesse essere di là ad attenderlo. Gli era parso strano non vederla in nessun luogo della casa e più strano che mai gli sembrò di non trovarla. Ora ad attenderlo in camera sua. Ma non c'era alcun segno della presenza di Peonia. Le finestre erano nude e di fiori, sul tavolo non c'era la teiera calda. Tutto era abbastanza in ordine, salvo il leggero velo di polvere visibile su ogni cosa. Nessuno quella mattina era venuto, come soleva fare Peonia, a rendere tutto lindo prima che egli entrasse. Il letto, i libri, i cuscini sulle sedie, tutto aveva il fermo e inerte aspetto di una camera da gran tempo vuota. Sarebbe stato difficile, pensò, far di nuovo propria, viva quella stanza, la sua stanza dopo il lungo abbandono. Un giorno aveva pensato tranquillamente di abbandonarla alla rovina della rivoluzione, ma la stanza non era stata rovinata. Era ancora lì, forse in attesa di finire sotto una bomba giapponese. Chi mai poteva prevedere come sarebbe andata a finire? Non certo lui. Poi si sovvenne di qualche cosa d'altro. Molto tempo prima Ellan aveva narrato per iscritto le proprie vicissitudini ed egli, Aiwan, aveva gettato il manoscritto in fondo a un cassetto sotto i quaderni. Aprì bruscamente il cassetto e ci cacciò dentro una mano. Nessuno mai l'aveva toccato. I libri erano pieni di polvere, ma i fogli piegati erano spariti. Qualcuno li aveva presi. Forse quel giorno in cui tutti i componenti della banda erano stati scoperti. Un sudore freddo gli imperlò la fronte. Forse suo padre. Ma suo padre non entrava mai in quella stanza e in quanto a Peonia, ella non aveva mai fatto altro che riordinare le sue robe. Certo non poteva essere stata lei, Peonia, a tradirli. Peonia, alla quale gli aveva tutto raccontato. Quel pensiero lo assillò. Non poteva liberarsene. Per quasi metà della notte lo tenne sveglio, per quanto si ripetesse che erano ormai cose lontane e superate. In serata aveva piovuto e per tutto il tragitto da casa al porto dove aveva preso imbarco, sua madre non aveva fatto che ripetere: ho pregato perché piovesse, ho ben pagato gli dèi per questa pioggia. Sì, suo padre era mutato. A quei discorsi degli dèi non aveva sollevato obiezioni a differenza di un tempo. Un tempo, infatti, si sarebbe impazientito con la moglie. Erano saliti insieme a bordo e il signor Wu aveva dato ad Aiko denaro e biglietti. La casa, quando ci tornarono, era piena di silenzio e il signor Wu era troppo stanco per poter parlare. Le nuvole, disse, nascondono la luna. Stanotte non avremo incursioni aeree, perciò dormiamo mentre lo possiamo. E con quelle parole si era ritirato nella sua stanza. Aiwan lo imitò ritirandosi nella sua. Ma anche quando fu al calduccio delle coperte, Aiwan fu ripreso dal pensiero di Peonia e di quello che ella aveva potuto fare. Se Peonia li aveva traditi, ah, Allora era lei la colpevole della morte di Enlan. Ma non bastava quel pensiero a uccidere la fiducia che egli aveva sempre avuto in lei. Chi era in fondo Peonia? Non l'aveva dimenticata. Ella gli era rimasta nella memoria, anche se in tutti quegli anni vissuti con Tamà non aveva mai pensato a lei. Una volta sola aveva rievocato l'immagine ed era stato la notte del suo matrimonio. Quella notte aveva pensato a Peonia abbastanza a lungo per rallegrarsi di non averla mai amata e di non essersi mai neppur permesso di accogliere il suo amore. Ma non aveva espresso mai quell'idea a Tamà. Meglio ancora, davanti a lei non aveva pronunciato mai neppure il nome di Peonia. Ma l'amica cinese non per questo aveva cessato di essere qualche cosa per lui. Che cosa precisamente non sapeva, forse solo la memoria di una fragranza e null'altro. La mattina dopo a colazione volle comunque vederci chiaro in quel mistero e interrogò suo padre con voce calma, cercando di adottare un tono indifferente. Mi sono spesso chiesto se fossi tu anni fa a scoprire l'esistenza della nostra banda, tanto tempo è passato che mi pare di potertelo chiedere. Ne fui informato da Chiang Kai-shek, rispose suo padre. Chiang Kai-shek? Ripeté Ai-wan, stupefatto. Come faceva a sapere? Ah, sa tutto, rispose asciutto suo padre. In quei giorni avemo numerosi colloqui privati e in cambio della sua promessa per il ristabilimento dell'ordine e l'espulsione dei comunisti, io promisi dei prestiti, concordandone con lui l'entità. E un giorno mi fece chiamare con grande urgenza. Mi presentai a lui, mi ricevette a quattro occhi e mi fece vedere un elenco di comunisti da far giustiziare, e nell'elenco c'era anche il tuo nome. Io non potevo crederci, giurai anzi che si trattava di un errore. Allora egli fece chiamare un certo tuo compagno di classe, il quale per una somma di denaro aveva fornito l'elenco dei nomi, e fra essi c'era il tuo. Quel tale si chiamava Peng Liu, domandò con febbre Ai Wan. Non ricordo, rispose suo padre, assumendo a quella rievocazione un'aria disgustata. Era un tipo piccolo, di statura, dall'aria sfuggente, figlio, come disse lui stesso, di un piccolo bottegaio. È lui, è Peng Liu, esclamò Yuan. È stato lui. Dov'è ora? Non era dunque stata Peonia e non era colpa di Yuan se Enlan era morto. È morto, disse con calma suo padre. Gli fu dato il denaro pattuito e poi fu passato per le armi. Ma perché è passato per le armi se... cominciò Yuan. Chang disprezza i traditori, rispose suo padre. Ma come mai può offrire il prezzo del tradimento e poi condannare colui che lo ha accettato? Domandò con indignazione Yuan. Lo può? Rispose suo padre. Devi capire questo. Chiang Kai-shek è spietato, ma sincero. Egli ricorre a tutti i sistemi utili, salvo a spazzar via coloro di cui non può fidarsi abbastanza per servirsene di nuovo. Un opportunista, commentò Yuan. Tutti saggi lo sono, replicò suo padre. Sono solo gli sciocchi che non mutano col mutare dei tempi, ma l'uomo nel suo intimo è sempre quello. Suo padre si protese avanti col busto e batté sulla tavola fra loro due con le sue lunghe unghie. Ai Wan, io ti dico che Chiang Kai-shek è il solo che possa salvarci dai giapponesi. Ti dico che ci salverà. Ha deciso sin dal giorno in cui è tornato tra noi e non desisterà se non quando avrà raggiunto il suo scopo. Vedi? Come ha fatto Piazza Pulita dei comunisti? Essi sono nascosti ormai nei più reconditi angoli del nord-ovest. Gradualmente, un anno dopo l'altro, li ha respinti, deciso a unificare il governo del paese. Beh, a sottoporlo al suo governo, disse con sarcasmo Iwan. Governo unico, replicò severo il padre. Molto meglio il suo governo unico che non abbandonare il paese a una guerra civile rovinosa dopo la quale i giapponesi avrebbero avuto buon gioco. Vuoi forse dire, disse lentamente Ai-wan, che Chiang Kai-shek previde quanto sarebbe successo sin da 10 anni or sono e che cominciò già allora la sua opera di unificatore? Non si ricordava più di Peonia ora. Ora pensava soltanto all'uomo che aveva odiato con furente passione fino a singhiozzare di amarezza al pensiero, che aveva chiamato traditore in cuor suo perché aveva tradito la rivoluzione, ma ora, che dire ora? Se veramente Chiang Kai-shek aveva visto meglio e più lontano di tutti. Suo padre assentì col capo. Credo che egli veda tutto, disse, e che possa fare tutto. È un grandissimo uomo. Ma Aiwan non poteva ancora accettare ad occhi chiusi quei giudizi, ricordando certe cose lette sui giornali giapponesi. Il suo opportunismo lo ha tradito qualche volta, disse. Questo gli accadde prima di essere quello che ora fu, la risposta. La prova della grandezza di un uomo consiste nel suo saper vedere il male che ci può essere nei propri atti e cambiare. In altri tempi, proruppe Aiwan, non sarebbe stato che uno dei tanti capi guerrieri della Cina. La sua mentalità e i suoi mezzi sono quelli di un capo guerriero che risolve regolarmente i suoi problemi ricorrendo alla forza. Ma li risolve. E poi tutte le sue mogli. In così dire, alzò gli occhi dal piatto che aveva davanti per incontrare lo sguardo piuttosto freddo di suo padre. Non discuterò questo capitolo con te, disse con dignità. La donna che un uomo sceglie per sé è affar suo. Quando tuo fratello comparve con quella Frida, tua madre pianse fino a costringermi a chiamare un medico. Non faceva che gemere che noi avremmo dovuto costringere Aiko a sposarsi prima di lasciarlo partire. Io le dissi che il principio a cui ci eravamo attenuti era giusto e che comunque non c'entra il fatto che nostro figlio sia uno scemo. Si interruppe accigliato. Aiwan notò che tollerava a stento, cupamente, la presenza nella famiglia della donna bianca. Suo padre alzò gli occhi e lo guardò. E tu, come te la intendi con la tua moglie giapponese? Domandò gentilmente. Non ho mai sollevato obiezioni alla tua scelta. Le donne giapponesi sono di solito ottime mogli. Sono donne che conoscono il loro posto. E poi, questa guerra non ha nulla a che fare con la tua scelta. Soltanto persone stupide e ignoranti possono confondere una relazione umana con un affare di Stato. Aiwan fu grato a suo padre per quella benevolenza e volle dirgli qualche cosa sul conto di Tama. È tanto buona. Io non ho mai visto una donna buona come lei, così attenta in tutto quello che fa. Non posso pensare a lei come a una donna giapponese. Per me è lei e nient'altro che lei. È la madre dei miei figli. Sì. Commentò pensoso suo padre, come inseguendo un altro pensiero. Ma come farete ora a scrivervi? Saranno guai se si saprà che tu ricevi lettere dal Giappone, ma al mio ufficio naturalmente la cosa non sarà notata. Dille di indirizzare le sue lettere a me. E tu, dal canto tuo, manda a me le lettere per lei e io penserò a farle recapitare. In questi tempi in cui i giovani sono sospettosi e di pronte collere, corri il rischio di essere assassinato. Se soltanto sorge l'idea che tu carteggi col Giappone. A questo Aiwan non aveva pensato. Grazie, babbo, disse. Ma per te non è pericoloso? Oh, io sono conosciuto da tutti, fu la risposta. Il mio rischio non è grande, e poi nessuno oserà ammazzarmi. Chang si farebbe sentire e tutti hanno paura di lui. E di nuovo il discorso cadde su Chiang Kai-shek. Mi hanno detto, osservò Aiwan, che egli crede in un Dio solo, nel Dio cristiano. Se questa sua fede è sincera, come mai puoi fidarti di lui? Un lento sorriso comparve sul volto quadrato di suo padre. Oh, Chiang Kai-shek è sempre sincero, disse. E qui, per la prima volta nella sua vita, Aiwan vide che suo padre scherzava. Usa anche il Dio dei cristiani, disse. Grand'uomo, grand'uomo. Per la prima volta era davanti all'uomo che aveva spezzato la sua vita, costringendolo all'esilio in un altro mondo, e tuttavia era proprio quell'uomo che ora lo aveva richiamato. Mai si era trovato davanti a una presenza così potente, neppure in là gli aveva fatto quell'impressione. Avesse vissuto un giorno in là sarebbe stato ugualmente forte, ugualmente padrone di sé e pieno di disciplinata potenza. Siedi, gli disse Chiang Kai-shek. Aiwan sedette su una delle tre sedie dallo schienale dritto che erano nella stanza e attese. La bella moglie di quell'uomo che era venuta a incontrarlo lo aveva informato che Chiang Kai-shek non parlava che la propria lingua. Tenetevi pronto, per favore, gli aveva detto con una voce di tanto più dolce del suo bel viso energico. E soprattutto non usate parole inglesi. Ci sono molti giovani che non trovano la propria lingua ricca abbastanza e infiorano il loro cinese di vocaboli inglesi senza sapere che tanto basta per mandarlo in furia. Allora suole domandare se il cinese non basta. E così dicendo, sorrise un tantino. Starò attento, aveva risposto Iwan. Quali erano, si disse ora, attendendo, i sentimenti di quell'uomo nei confronti della propria moglie? Ella portava abiti cinesi, i suoi capelli neri erano lisci e pettinati all'indietro e terminavano costretti in un grosso nodo di foggia antica, ma erano bastati pochi momenti trascorsi con lei perché Yuan s'accorgesse che in mille cose ella non era cinese. I grandi occhioni neri erano luminosi e pieni di sottintesi. La morbida voce era franca e tutte le sue mosse, per quanto controllate, erano sciolte. Era insomma il tipo della donna che avrebbe sempre fatto di testa sua. Aiko si era messo a ridere quando aveva ricordato che lei, proprio lei, era comandante supremo delle forze aeree cinesi. Ma era davvero il tipo di essere al comando di non importa cosa, salvo forse di suo marito. Chiang Kai-shek alzò gli occhi e fissò Yuan. Era stato immerso nella lettura di un lungo documento, lo aveva firmato e sigillato. Quando aveva gli occhi abbassati, la sua bocca era la nota più forte del volto, una bocca bellissima, austera, volitiva. Ma quando gli occhi guardavano, uno la dimenticava. Quello sguardo diritto e nero si imponeva. Tuo padre è mio amico, disse Chang. Aiwan si inchinò leggermente e attese. Gli occhi del suo interlocutore non batterono ciglio. Ho questa lettera, proseguì Chang con voce tranquillissima e piuttosto fredda, ed è della massima importanza. Deve essere consegnata a certo ufficiale dell'esercito comunista del Nord-Ovest e dalle sue mani passerà in quelle di altri generali al comando di quell'esercito. Capisco, rispose Yuan, ma la sua comprensione non andava oltre quegli aridi particolari. Perché mai Chiang Kai-shek doveva mandare documenti agli uomini che aveva perseguitati con tanto accanimento, molti dei quali erano morti per causa sua e quelli rimasti erano stati ricacciati nelle regioni del lontano ovest? Ma non c'era tempo per congetture, doveva ascoltare ciò che gli si diceva. Quell'uomo non si sarebbe mai ripetuto, non avrebbe mai dato spiegazioni, né detto una parola di più. Non c'era dunque da perdere neppure una parola. Scelgo te perché tuo padre mi assicura che di te ci si può fidare. Ma se fidato non sei, seguirai la sorte di non importa quale altro traditore. Tuo padre capisce questo principio e così devi capirlo tu. Un aereo è pronto per te. Devi partire subito. Un momento, eccellenza, disse Yuan. Devo tornare con una risposta? L'apparecchio ti aspetterà per trasportarti indietro, rispose Chang. Suonò un campanello sulla tavola. E subito la porta si aprì. Aiwan si alzò e istintivamente salutò col gesto secco che gli era stato insegnato dal suo istruttore tedesco. Hai ricevuto istruzione militare? Domandò asciutto Chang. Credevo che solo tuo fratello fosse stato all'estero. Sono stato nel Giappone, disse Aiwan. Istruzione militare laggiù? Domandò ancora Chang. No, la mia istruzione risale a prima di allora. Chang batté forte il campanello col palmo della mano e di nuovo la porta si chiuse e Aiwan rimase in piedi davanti a lui. Mi dicono che il Giappone sia sull'orlo di un crollo, disse bruscamente Chiang Kai-shek. È vero? No, rispose Aiwan, non è vero. Gli affari vanno bene? La domanda, come quella precedente, era formulata in tono secco. Sì, rispose Aiwan, ricordando l'intenso traffico per le vie giapponesi. Mi si dice che la gente non vuole la guerra, è vero? Aiwan rispose con fermezza. Il popolo fa tutto quello che gli si dice di fare. È ligio al governo? Completamente ligio. Adora sempre l'imperatore? Sì. Chang si mosse, sospirò e per la prima volta distolse gli occhi da Aiwan, raccolse il suo sigillo di giada e lo guardò. Mi hanno sempre mentito. Dico, la gente che mi circonda, osservò. Sarà una lunga guerra la nostra. Deve esserlo, rispose Yuan. E poi, ricordando Hideyoshi, soggiunse: sarà tanto di guadagnato per noi se ce ne renderemo ben conto in partenza e tracceremo i nostri piani con quel presupposto. Il nemico, pensava a Hideyoshi, non a Tamai, ai suoi bambini, che appartenevano a lui soltanto, conta su una guerra breve. Chang lo fulminò di nuovo col suo sguardo acuto. A tutta prima si diceva 3 mesi, ora un anno, rispose Yuan. Ma, soggiunse, credo che la guerra durerà molti anni. Giunse di fuori il rombo di un apparecchio, ma Chiang Kai-shek lo trattenne ancora. Il che significa che noi dobbiamo progettare la nostra guerra, calcolando che essa avrà inizio quando la loro sarà finita, disse. E di nuovo guardò il suo sigillo. Ai Wan non disse nulla. Il che significa, ripeté ancora Chiang Kai-shek, che noi dobbiamo lasciarli spendere quando noi risparmiamo. Dico risparmiamo quanto è essenziale alla nostra vita nazionale, non le città, non la gente. Di città e di gente ne abbiamo da vendere. Ai Wan in attesa afferrò quelle parole. Non città, non gente. Non si dovevano salvare né città né gente, ma altro. Esisteva dunque un sistema di combattere una guerra in apparenza perdendo, in realtà vincendo? L'uscio si aprì e comparve la signora Chang. L'apparecchio aspetta, disse a suo marito. Non conviene che parta ora per evitare un atterraggio notturno? Sì, vai, ordinò Chang. E quale fosse il significato delle sue parole, non venne chiarito.